FM. Rock FM, sono le 8, il momento per gli uccellini di canticchiare. Buona giornata amici, buona giornata amiche, inizia la seconda ora di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll e serviamo anche quest'oggi la nostra sveglia, la sveglia particolare, sveglia con i Beatles, Here Comes the Sun. Anche questo mercoledì vogliamo svegliarvi così. In una botte de ferro i Beatles dal capolavoro Abbey Road con questa Here Comes the Sun. Sto attendendo ancora qualcuno che scriva, oh, guarda che l'hai già messa ieri, cosa che non succede perché abbiamo dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici attenti che capiscono il sentimento di positività che mettiamo in questo duro lavoro mattutino. Questo è il brano scelto per tenerci compagnia in 5 giorni di diretta, insomma, da lunedì fino a venerdì. Tra l'altro segnalo come questo brano ovviamente mi sia entrato in testa, e era cosa normale, anche perché è un brano meraviglioso. Purtroppo mi sono accorto, zappando in giro con quell'apparecchio che si chiama televisione, che Here Comes the Sun viene utilizzato in momenti incredibili della televisione italiana. Non li specifico, da tanto mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Se ci fate caso però, poveri Beatles, vengono usati in momenti veramente patetici, quindi mi sembrava doveroso fare girare il vinile di Abbey Road anche su Rock FM, così un po' per dare un po' di pulizia a questo brano. Si è capito il messaggio? Si è capito, Spadino, quello che volevo dire? No, ma è giusto così. Non mi pagano mica per far capire quello che dico, mi pagano solo per parlare al vento. Una stretta di mano a Uto che fa un commento, secondo me, carinissimo sulla canzone di Meat Loaf che abbiamo ascoltato nella scorsa mezz'ora. Meatloaf è un grande, riesce a far durare 10 minuti delle canzoni che dovrebbero durare 2. Beh, in realtà durava 9, ma ti sei decisamente avvicinato. È un mercoledì 5 di settembre, ventoso, freddino. Oggi c'ho la botta della meteorologia. E soprattutto c'ho la botta per quelli che stanno ancora, che non sono ancora usciti di casa. Anzi, ancora di più, per quelli che non hanno ancora aperto le finestre. Se abitate belli alti, oggi si vede tutto, ragazzi. È una segnalazione bella che volevo fare. Seconda, non uscite in pantaloncini. Anche tu, amica, con quella gonnellina stai benissimo, ma fa freddo. Fa freschin, come si dice dalle mie parti. Bon Jovi! Wanted, dead or alive. Hai capito? Seems we're wasting away. mercoledì qualsiasi da passare fino alle 9 del mattino in compagnia di Pane, Burro, Rock and Roll con l'Ariele Spadino e Roberto Fricantoni, che vedo crucciato. Non faccia così di mercoledì. Lo so. Della prima settimana. Mi faccia un bel sorriso. Lei sa che non nascondo nulla, non riesco. Quando le scappa è sempre dura. Non riesco a celarle nulla. Saghè. Ci sono delle dolenti note in questo 5 di settembre che dobbiamo affrontare. Dolenti note che dobbiamo affrontare. Ah, una ricorrenza di morte. Ahimè. Moriva un grande, l'enorme, Il gigante nel 1877. Cavallo pazzo. Ah, il Sioux. Esatto. Crazy Horse. Capo Sioux. Ma lei sa come si pronuncia in Lakota cavallo pazzo, Crazy Horse? Perché lei sa il lakotese. Ma naturalmente. Ce lo dica allora. Lo frequento quotidianamente. Si dice Tashunka Uikto. Addirittura cavallo pazzo. Sì, Uitko. O Tashunka Vitko. Vitko. Tashunka cavallo, secondo me. Witko è pazzo. Il pazzo Antoni sarebbe Witko Antoni. Ah, Witko, bello, mi piace, lo adotto, insomma. Comunque dipende dalle traslitterazioni, ecco. Era conosciuto anche come Pensi, questa è una curiosità. Come Ricetto Ricciuto, traducendo alla Biona. Era meglio cavallo pazzo. Era meglio, infatti, decisamente è più evocativo cavallo pazzo, a causa dei capelli che erano particolarmente ricci e di colore castano chiaro. Cosa rarissima tra i nativi americani. Tra le varie mitiche esperienze di cavallo pazzo ricordiamo la battaglia insieme a Toro Seduto, che momenti, Freak, contro il tenente Custer, e ricordiamo anche che il grido di guerra di cavallo pazzo era Hokahei. Vede che lo so anch'io il Lakota. Ma infatti... È un buongiorno per morire, è lui l'inventore di È un buongiorno per morire. Infatti, ma ci furono fraintendimenti, nel senso che tradussero in maniera maldestra questo... Ok. Esatto, questo Hokahei. In realtà lui voleva dire avanti uomini, seguitemi. Esatto. E invece. C'è sempre... L'incompetente non filologicamente attendibile. Salutiamo, ecco. Cavallo pazzo. Salutiamo l'enorme, l'immenso cavallo pazzo. Like a session. And I'd like to tell you what you can do with it. It's a Saturday Night Special. Lena Scanner. Quello che ci vuole, scrive Cesare da Milano al 335-100-7777 per affrontare al meglio la giornata. Qui scrive gli Skyner alla mattina presto, sono quello che ci vuole. Grazie caro Cesare per il feedback positivo dedicato agli Skyner. Solitamente non ci occupiamo di cronaca qui a Pane, Burro e Rock and Roll per precisa scelta politica della redazione della trasmissione in diretta dalle 7 alle 9, ma confesso che più di un paio di SMS mi segnalano la notizia che avevo già intrasentito in altre radio prima di iniziare la diretta di quest'oggi qui a Rock FM. Purtroppo è morto in nottata il celebre presentatore, imitatore Gigi Sabani, a seguito di un attacco cardiaco. Leggo una leggo dal Corriere della Sera. Lo showman si è sentito male martedì sera a casa della sorella Isabella e i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 5 di ottobre. Ripeto, segnalo la morte di Gigi Sabani, la segnalo perché un po' di SMS, un po' di amici via SMS mi hanno girato questa segnalazione. Probabilmente a tutta la generazione nata un po' in anni nei quali la televisione era un po' babysitter, Gigi Sabani è sicuramente un personaggio che ricordate e che ricordiamo, ricordo anch'io, con come grande imitatore. Intanto 8 e 20 minuti primi, ci avviciniamo al momento quizzone, al momento del test attitudinale, una domanda al giorno per scoprire se siete dei veri rocker oppure no, e comunque per diventarlo il prima possibile, no? E intanto, per diventare dei veri rocker, gustatevi questi Led Zeppelin di Hoo La La La Love qui a Rock FM. Si roccheggia duro. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. Yeah. Rocker o ci si nasce o rocker ci si diventa, sicuramente ascoltando Pane, Burro e Rock and Roll e scoprendone ogni giorno di più sul pazzo mondo del rock, un po' rocker lo potete diventare anche voi. Come, mi direte forse, come è possibile diventare autentici rocker ed ottenere l'ambita, ma che dico ambita, l'ambitissima tessera davvero rocker? Sicuramente inviando 5 euro in busta chiusa in via Locatelli 120-124 Milano, oppure non faccia rispondendo così, DJ Ariele, alle domande del test attitudinale. Ne ho una fresca fresca da fare, Fritte. E allora cosa aspettiamo? Anche perché li vediamo che fremono, hanno bisogno di questi punti per la tessera da autentico rocker. Si ricorda i Nirvana, maestro Freak? Come dimenticare, i Nirvana hanno cambiato le sorti del rock internazionale. Oggi parliamo di una particolarità legata al nome Nirvana. Quale delle tre ipotesi che ci farà è vera e quale è totalmente falsa? Allora, vi sottopongo la prima ipotesi legata al nome Nirvana. Ben due formazioni precedenti a quella capitanata da Cobain si chiamarono Nirvana. La prima fu popolare addirittura durante gli anni 60, la seconda invece una band di Christian rock, di rock cristiano, nata negli anni 80. I Nirvana, gli ultimi, quelli celebri, quelli famosi, furono citati in giudizio e dovettero pagare un indennizzo ad entrambi i gruppi omonimi precedenti. Hai capito? Chissà se questa è quella vera. È solo la prima ipotesi. Opzione numero due: i Nirvana furono citati in giudizio nel 1995 da un sacerdote induista di Seattle perché, a suo modo di vedere, era disdicevole utilizzare un termine come Nirvana da accostare a una band di rock. Chissà se è questa l'ipotesi giusta o se forse è la 3. Ma vediamo l'opzione numero 3. Il nome Nirvana deriva dalla marca di shampoo usata dal batterista Dave Grohl. Avete pochi secondi per pensare, fatelo ora. Fatelo immediatamente, prendete appunti, insomma, scervellatevi, provate, buttatevi. La risposta, come al solito, ve la diamo dopo, e cioè la soluzione a tra poco.